e mi ricordo che avevo, credo, 10 anni, forse 11. No, 10, perché ero nel salotto di casa mia, però quello con i divani mezzi sfondati che sarebbero stati sostituiti di lì a poco, un anno dopo, credo, con un divano soffice di quelli da salotto di rappresentanza. La TV era accesa, il telecomando era in mano a mia madre. A un certo punto finiamo su un canale che trasmette un film apocalittico, di quelli in cui l'umanità si sta estinguendo e sono rimasti pochissimi superstiti che cercano un modo per decidere se sopravvivere o se è meglio lasciare stare. Il film si intitolava The Day After. Il film raccontava la sorte di questa famiglia rinchiusa in un bunker antiatomico esattamente il giorno dopo una catastrofe nucleare. Dunque, per una strana coincidenza, ci troviamo a guardare il film proprio nel momento in cui la famiglia è nascosta nel rifugio sottoterra e si sente qualcuno che da fuori si avvicina alla porta del bunker. C'è un'immagine soggettiva che segue proprio i passi di questo tizio che si sta avvicinando. La famiglia nel bunker si zittisce, si mette ad ascoltare. Si vede una mano che si appoggia alla maniglia, la gira e apre la porta. Ecco, in quel momento esatto, mia madre disse no e cambiò canale. Io non ebbi nemmeno il tempo di protestare, cioè non feci nemmeno in tempo a chiedere di lasciarmi vedere almeno come stava andando a finire, no? Perché mia mamma mi rispose ancora prima che io potessi dire qualsiasi cosa, mi disse no. Io ricordo quel no come uno dei no più perentori che mi siano mai stati detti. E non sapevo mai cosa accadde dopo in quel bunker. Chi era il tizio sopravvissuto che da fuori cercava rifugio là dentro e tantomeno poi come finiva il film, non l'ho più rivisto. Però ricordo quel no di 25 anni fa, con una certa tenerezza. Oggi a distanza riesco a riconoscere tutta la protezione di mia madre e l'amore nascosto dietro a quella negazione. Però è stato un no. Sono seguiti molti altri no nella mia vita. Il no per una parte che ero convinto di avere conquistato dopo un provino splendido in un teatro molto importante in Italia. Il no del mio professore di economia aziendale dopo un esame orribile che però mi avrebbe permesso di laurearmi in tempo e non pagare le tasse. Il no degli osservatori del Novara Calcio quando non superai il provino per andare a giocare negli allievi nazionali della squadra della mia città. Ecco, a distanza di anni tutti questi no io li ricordo con affetto. Perché sono un po' tutto quello che non ho fatto, tutto quello che non sono diventato. Un po' come se fosse il negativo della fotografia che mi ritrae. Oggi si parla dei no che vi hanno bruciato di più. Se volete raccontarmi tutti i no della vostra vita, io sono qui.